Adesso per la seconda parte del concerto io presento il batterista Gus Johnson. E il basso Max Bennett. E il pianista Lou Levy. E la prima cantante in tutto il mondo, Ella Fitzgerald.